Guarda, c'è l'asino. Adesso lasciatemi in pace. Ecco. Adesso devo dargli anche qualcosa all'asino, perché sennò è geloso, segno. Lui invece è molto socievole, si sente compagno. Come si chiama? Francis. Ciao Francis. Si sente i bambini. 30 anni ha. Ciao Francis. No, penso adesso, sì, perché l'aveva appena 7 anni. Francis.